dogma è logicamente legato al potere, proprio per la sua illogicità. Se fosse dimostrabile razionalmente non ce ne sarebbe bisogno. Se fosse, e lo è, contrario alla ragione, solo un potere, e per di più assoluto, potrebbe imporlo. La domanda allora non è perché un potere lo impone, ma perché centinaia di milioni di individui lo accettano, anche se non vi è costrizione apparente. Alcune religioni o frange estreme di esse, fino a pochi secoli fa, anche da noi, fanno uso della costrizione e si alleano con un potere politico che si incarica di esercitarla. Per lo più, tuttavia, l'assenso viene ottenuto con altri mezzi. Quali? Con l'invasione ideologica, penetrando cioè nella mente e occupandola nella sua totalità, cosicché ogni forma di pensiero ne sia condizionata. Ma com'è possibile una tale invasione senza che la ragione si difenda? Qui entra in gioco il dogma, la cui irrazionalità mina il fondamento logico della ragione, lasciando libero il campo a un potere più forte della costrizione fisica. Lo dimostrano i martiri di tutte le fedi e anche oggi i kamikaze. Perché viene accettata la devastazione della mente da parte del dogma? Perché la mente non coincide con la ragione e questa stessa tende a comportarsi come un dogma, costringendoci in qualche modo all'assenso. E allora quella parte della mente che vuole ribellarsi alla ragione trova nell'irrazionalità delle superstizioni e delle religioni una valida alleata. Nel momento in cui l'irrazionalità aspira al potere, inventa il dogma, che concilia appunto irrazionalità e potere. Vi convince questa interpretazione di fantasia, ma non irrazionale, del dogma? Se non è così, proponetene un'altra.